Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. E dunque nella Mosca deserta le truppe francesi entrano e danno inizio ai saccheggi. Pierre lascia la sua casa e si reca in quella di Iosif Alexeievich, il massone che lo aveva iniziato alla massoneria e che è defunto nel frattempo, col pretesto di mettere in salvo i libri e le carte del defunto notabile. In realtà Pierre desidera stabilirsi nella casa del massone per il desiderio di sfuggire a tutte le preoccupazioni familiari e le preoccupazioni quotidiane che la sua propria casa gli ispira. Nella solitudine della casa di Iosif Alexeievich, Pierre matura il proposito di uccidere niente meno che Napoleone. Se non che nel frattempo due ufficiali francesi si presentano in casa di Iosif Alexeievich e Pierre sventa il tentativo del fratello demente di questi di ucciderli. Il capitano Rambal, grato a Pierre per avergli salvato la vita, si mette a chiacchierare con lui, poi ordina la cena, cenano insieme e alla fine, naturalmente, dopo qualche bicchiere di vino, l'argomento non può che cadere sulle donne e sulle avventure amorose dell'ufficiale francese. Pierre ascolta e non può fare a meno di pensare al suo amore per Natasha e si rende anche conto che forse non troverà mai la forza di uccidere Napoleone. E parlando col brillante capitano Rambal, dimentico del suo proposito di non dire nulla di sé e di rimanere in incognito, gli confessa i suoi sentimenti amorosi, ma anche tutta la storia della sua vita, il suo patrimonio, il suo nome, tutto insomma. Gli abitanti che a piedi o su veicoli lasciavano Mosca e le truppe in ritirata guardavano da diverse strade e con diversi sentimenti il chiarore del primo incendio divampato il 2 settembre. Il convoglio dei Rostov quella notte era fermo a Mitischi, a 20 miglia da Mosca. Erano partiti così tardi il primo settembre, la strada era così ingombra di carri e di truppe, tante cose erano state dimenticate, a prendere le quali si erano mandati indietro dei servitori, che quella notte si era deciso di passarla a 5 miglia da Mosca. La mattina seguente si erano svegliati tardi e di nuovo c'erano state tante fermate che avevano potuto giungere soltanto a Bolshia Mitischi. Alle 10 i signori Rostov e i feriti che andavano con loro erano tutti disseminati per le locande e le isbe di quel grosso paese. I domestici e i cocchieri dei Rostov e gli attendenti dei feriti, dopo aver servito i loro padroni, cenarono, diedero da mangiare ai cavalli e uscirono all'aperto. Nel buio della notte uno dei domestici, di dietro all'altro corpo della carrozza che stava all'ingresso, notò un secondo piccolo chiarore d'incendio. Un altro si vedeva già da un pezzo e tutti sapevano che bruciava Malija Mitischi, incendiato dai cosacchi di Mamonov. E per un pezzo tutta quella gente stette a guardare in silenzio le lontane fiamme divampanti del nuovo incendio. «È da Mosca che viene quel chiarore?» disse uno dei servitori. Tutti tacquero per un pezzo. Il chiarore si spandeva e ondeggiava sempre di più. «Misericordia di Dio! Il vento e questo tempo secco!» disse di nuovo una voce. «Guarda come cammina! Oh, signore, si vedono le cornacchie! Signore, abbi pietà di noi peccatori! Lo spengeranno, non aver paura!» «Chi lo spengerà?» si udì la voce di un vecchio servo, che era stato zitto fino ad allora. «È Mosca, ragazzi, la nostra madre bianca!» La sua voce si ruppe ed egli scoppiò in senili singulti. Pareva che tutti non avessero aspettato se non questo per capire il significato che aveva per loro quel chiarore che si vedeva. Si udivano sospiri, parole di preghiera e i singulti del vecchio cameriere del conte. Questi, tornato dentro, riferì al conte che Mosca bruciava. Il conte indossò la veste da camera e uscì fuori a vedere. Natasha e la contessa rimasero dentro la stanza. La contessa, udita la notizia dell'incendio di Mosca, si mise a piangere. Natasha, che, pallida, con gli occhi fissi, sedeva sotto le immagini su di una panca, non fece attenzione alcuna alle parole del padre. Ella prestava ascolto ai lamenti incessanti dell'aiutante di campo, che si sentivano alla distanza di tre case. Natasha si trovava in quello stato di stordimento fino dal mattino, quando Sonia, con meraviglia e dispetto della contessa, Senza che se ne capisse il perché, aveva creduto necessario parlare a Natascia della ferita del principe Andrei e della sua presenza nel loro convoglio. La contessa si era adirata contro Sonia come di rado si adirava. Sonia aveva pianto e chiesto perdono e ora, come sforzandosi di riparare il malfatto, non cessava di prendersi cura della cugina. Da quando la mattina avevano detto a Natascia che il principe Andrei era gravemente ferito e viaggiava con loro, per tutto il viaggio, con quegli occhi spalancati che la contessa conosceva tanto bene e di cui temeva tanto l'espressione, Natascia era restata immobile in un angolo della carrozza e così ora sedeva sulla panca dove si era messa. Che pensasse a qualcosa, che stesse per prendere o avesse già preso una decisione, la contessa lo sapeva. Ma quale fosse questa decisione, non lo sapeva, e ciò appunto la spaventava e la tormentava. I lamenti dell'aiutante si udivano più distinti dalla finestra aperta. Natascia sapeva che quei lamenti non erano del principe Andrei. Sapeva che il principe Andrei era disteso là, nel medesimo gruppo di abitazioni, in un'altra isba attigua all'ingresso, ma quel tremendo, continuo gemito la faceva singhiozzare. La contessa scambiò uno sguardo con Sonia. «Coricati, cara, coricati, anima mia», disse la contessa, toccando leggermente con la mano la spalla di Natascia. «Su, coricati». «Ah, sì, sì, sì, mi corico subito, subito», disse Natascia, spogliandosi in fretta e strappando i lacci delle gonne. «Natascia, mettiti in mezzo», disse Sonia. «No, resto qui», disse Natascia. «Ma coricatevi dunque», aggiunse con dispetto, e affondò il viso nel guanciale. Poco dopo Natascia udì il respiro eguale della madre. Natascia non si muoveva, benché il suo piccolo piede scalzo, liberatosi della coperta, intirizzisse sul pavimento. Come se festeggiasse la sua vittoria su tutti, un grillo si mise a stridere in una crepa del muro. Lontano, un gallo cantò. Uno, più vicino, gli rispose. Nell'osteria il vociare si chetò. Si udiva soltanto il consueto gemito dell'aiutante. Natascia si sollevò. «Sonia, dormi. Mamma!» mormorò. Nessuno rispose. Natascia lentamente e con precauzione si alzò, si fece il segno della croce e con precauzione posò il suo piede nudo, sottile e snello, sul sudicio e freddo pavimento. Le assi scricchiolarono. Ella, muovendo rapidamente le gambe, fece di corsa alcuni passi, come un gattino, e mise la mano sulla fredda maniglia della porta. Le pareva che qualcosa di pesante battesse a colpi uguali su tutte le pareti dell'isba. Era il suo cuore, che batteva da schiantarsi, ghiacciato di paura, di terrore e di amore. Aprì la porta, oltrepassò la soglia e camminò sulla terra umida e fredda dell'entrata. Il freddo che la prese la rianimò. Urtò con il piede nudo un uomo che dormiva, lo scavalcò e aprì la porta dell'isba dove giaceva il principe Andrei. In quell'isba era scuro. Nell'angolo più lontano, presso al letto sul quale c'era qualcuno disteso, stava su di una panca una candela di sego che, colando, aveva formato come un gran fungo. Natascia, fin dalla mattina, quando le avevano detto della ferita e della presenza del principe Andrei, aveva stabilito che doveva vederlo. Non sapeva perché dovesse fare così, ma sapeva che l'incontro sarebbe stato penoso e tanto più era persuasa che fosse necessario. Tutto il giorno era vissuta di questa sola speranza, che nella notte lo avrebbe veduto, ma ora che quel momento era giunto, fu presa dal terrore di ciò che avrebbe veduto. Come era stato sfigurato? Che rimaneva di lui? Era come quell'aiutante che gemeva di continuo? Sì, doveva essere così. Nella sua fantasia, egli era la personificazione di quel tremendo gemito. Quando vide nell'angolo una forma indecisa e prese le ginocchia rialzate sotto la coperta per le spalle di lui, si rappresentò un corpo orribile e si fermò atterrita. Ma una forza irresistibile la attirò. Fece con precauzione un passo, poi un altro, e si trovò nel mezzo della piccola isba ingombra di roba. Per quanto spaventosamente poca fosse la rassomiglianza di quel corpo con una creatura umana, ella doveva vederlo. Passò oltre il cameriere. Il fungo formato dal colare della candela era caduto, ed ella vide distintamente il principe Andrei, che giaceva, con le braccia sulla coperta, tal quale come ella lo aveva veduto sempre. Egli era come sempre, ma il colore acceso del viso, gli occhi luccicanti fissi su di lei con esaltazione e specialmente il collo delicato, infantile, che usciva dal goletto rovesciato della camicia, gli davano un aspetto particolarmente innocente e fanciullesco che ella non aveva mai visto al principe Andrei. Gli si avvicinò e con un gesto rapido, flessuoso e giovanile, si inginocchiò. Egli sorrise e le stese la mano. Erano passati 7 giorni da quando il principe Andrei s'era riavuto al posto di medicazione del campo di battaglia di Borodino. Durante tutto questo tempo egli si era trovato in una quasi completa incoscienza. Lo stato febbrile e l'infiammazione degli intestini, che erano stati lesi, a parere del medico che accompagnava il ferito, dovevano portarlo via. Ma il 7° giorno egli aveva mangiato con piacere una fettina di pane insieme col tè, e il dottore aveva osservato che la temperatura generale era diminuita. Nella mattinata il principe Andrei aveva ripreso conoscenza. Il dottore e il cameriere sollevarono il cappotto che lo copriva e, facendo una smorfia per il grave odore di carne marcia che esalava la ferita, si misero ad esaminare quel tremendo punto. Il dottore rimase molto malcontento di qualcosa. Rifece qualcosa in modo diverso, voltò il ferito dall'altra parte facendolo di nuovo gemere, sicché mentre lo voltavano egli perse di nuovo la conoscenza per il dolore e cominciò a delirare. L'anima sua non era in uno stato normale. Tutte le forze del suo spirito erano più attive, più lucide che mai, ma agivano al di fuori della sua volontà. I pensieri e le immagini più differenti lo occupavano contemporaneamente. A volte il suo pensiero cominciava a un tratto a lavorare, con tale forza, chiarezza e profondità che mai avrebbe potuto averle mentre era sano. Ma bruscamente, a mezzo del proprio lavoro, si interrompeva. Una qualsiasi immagine inattesa ne prendeva il posto ed egli non aveva la forza di ritornarvi. «Sì, mi si è rivelata una nuova felicità che nessuno può togliere all'uomo», pensava, giacendo nella quieta penombra dell'isba e guardando innanzi a sé con gli occhi fissi, dilatati dalla febbre. La felicità che si trova fuori dalle forze materiali, fuori delle influenze esterne della materia sull'uomo, la felicità dell'anima, la felicità dell'amore. Ogni uomo può comprenderla, ma Dio solo può averne piena coscienza e prescriverla agli uomini. Ma come mai Dio ha prescritto queste leggi? Perché il figlio... Ma ad un tratto il corso di questi pensieri fu troncato. E il principe Andrei udì, senza sapere se l'udisse nel delirio o nella realtà, udì il sommesso mormorio di una voce che ripeteva di continuo in cadenza i piti piti piti, e poi i titi titi titi, e di nuovo i piti piti piti, e di nuovo i titi titi titi titi. Insieme con queste parole, al suono di questa musica sussurrante, il principe Andrei sentiva sorgere al di sopra del suo viso, proprio nel mezzo, uno strano aereo edificio di aghi o di trucioli sottili. Sentiva che bisognava che egli mantenesse con ogni sforzo l'equilibrio perché quell'edificio che sorgeva non precipitasse. Ma pure esso precipitava e di nuovo lentamente si rifaceva al suono di quella musica sussurrante ritmicamente. «Si allunga, si allunga, si distende e si allunga sempre», diceva fra sé il principe Andrei, mentre tendeva l'orecchio al sussurro e aveva la sensazione di quell'edificio di aghi che si distendeva e si innalzava. Il principe Andrei vedeva a tratti anche la luce rossa che circondava la candela e udiva il fruscio degli scarafaggi e il ronzio della mosca che sbatteva sul guanciale e sul suo viso. E ogni volta che la mosca toccava il suo viso, gli produceva un senso come di bruciatura. Ma nello stesso tempo egli si meravigliava che, urtando proprio nel mezzo dell'edificio che si innalzava sul suo volto, la mosca non lo facesse crollare. Ma oltre a questo c'era ancora un'altra cosa importante. Era un che di bianco presso la porta. Era una statua di sfinge che anch'essa lo opprimeva. «Ma forse è la mia camicia lì sulla tavola», pensava il principe Andrei. «E queste sono le mie gambe, e quella è la porta. Ma perché tutto si stende e si muove? I piti, piti, piti, i titi, i piti, piti, piti, i piti, piti, piti. Basta, smetti, ti prego, lascia andare», chiedeva penosamente il principe Andrei a qualcuno. E ad un tratto il suo pensiero e il suo sentimento si riaccesero con straordinaria forza e chiarezza. «Sì, l'amore, pensava egli di nuovo con assoluta chiarezza, ma non quell'amore che ama per qualche cosa, con qualche scopo o per qualche ragione, ma quell'amore che ho provato per la prima volta quando, moribondo, vidi il mio nemico, eppure l'amai. Ho provato quel sentimento di amore che è l'essenza stessa dell'anima e che non ha bisogno di oggetto. E anche ora provo questo sentimento benedetto. Amare il prossimo, amare i nemici, amare tutto, amare Dio in tutte le sue manifestazioni. Una creatura cara si può amarla di amore umano, ma soltanto un nemico si può amarlo di amore divino. E perciò provavo una gioia così grande sentendo di amare quell'uomo. Che ne è accaduto? È vivo. Amando di amore umano, si può dall'amore passare all'odio, ma l'amore divino non può mutare. Nulla, neppure la morte, nulla può distruggerlo. È l'essenza dell'anima. E quanta gente ho odiata nella mia vita. Ma di tutte queste persone, nessuna ho più amata e più odiata di lei. E si rappresentò al vivo Natasha, non come se la rappresentava prima, con la sola sua leggiadria che lo allietava, ma per la prima volta si rappresentò la sua anima. E capì i suoi sentimenti, le sue sofferenze, la vergogna, il pentimento. Ora, per la prima volta, egli capì tutta la crudeltà dell'averla respinta. Vide la crudeltà della propria rottura con lei. Se potessi rivederla ancora una volta soltanto e dirle una volta sola, guardando in quegli occhi, i piti, piti, piti, i piti, i titi, piti, piti, piti, piti, piti, piti. Boom! La mosca picchiò un colpo. E ad un tratto la sua attenzione si trasportò in un altro mondo di attività e di delirio, nel quale accadeva qualcosa di particolare. Anche in questo mondo un edificio si innalzava sempre senza crollare, sempre come prima si distendeva qualche cosa e come prima la candela ardeva col suo cerchio rosso e la stessa camicia che pareva una sfinge era gettata presso la porta. Ma oltre tutto ciò si era udito uno scricchiolio. Si era sentita una ventata fresca e una sfinge bianca era apparsa, ritta davanti alla porta. E la testa di questa sfinge aveva il viso pallido e gli occhi scintillanti di quella Natasha alla quale egli pensava poco prima. «Oh, com'è penoso questo delirio continuo», pensò il principe Andrei, cercando di scacciare quel viso dalla sua immaginazione. Ma quel viso stava davanti a lui con la forza della realtà. Quel viso si avvicinava. Il principe Andrei voleva tornare a quel mondo precedente di puro pensiero, ma non poteva, e il delirio lo attirava nel suo regno. La sommessa voce sussurrante seguitava il suo ritmico balbettio. Qualcosa premeva, si distendeva, e uno strano viso stava dinanzi a lui. Il principe Andrei raccolse tutte le sue forze per tornare in sé. Fece un movimento, e ad un tratto i suoi orecchi tintinnarono. Gli occhi si appannarono e come un uomo che affonda nell'acqua, egli perdette la conoscenza. Quando si risvegliò, Natasha, proprio quella Natasha viva, che fra tutte le creature del mondo egli più avrebbe voluto amare di quel nuovo, puro, divino amore che adesso gli si era rivelato, stava dinanzi a lui, in ginocchio. Egli capì che era la vera Natasha viva e non ne fu meravigliato, ma ne gioì in silenzio. Natasha, stando in ginocchio, con lo sguardo atterrito ma inchiodato su di lui, lo guardava, trattenendo i singhiozzi. Il viso di lei era pallido e immobile. Solo nella parte inferiore del volto qualche cosa tremava. Il principe Andrei mandò un sospiro di sollievo, sorrise e tese la mano. «Voi», disse. «Che fortuna!» Natasha, con un rapido ma cauto movimento, si avvicinò a lui sulle ginocchia e, presagli delicatamente la mano, vi chinò su il viso e cominciò a baciarla, sfiorandola appena con le labbra. «Perdonate», disse in un sussurro, alzando il capo e guardandolo, «perdonatemi». «Io vi amo», disse il principe Andrei. «Perdonate». «Perdonare che?» domandò il principe. «Perdonatemi per quello che ho fatto», disse Natasha con un mormorio interrotto e appena percettibile, e si mise a baciargli più fitto la mano, sfiorandola appena con le labbra. «Io ti amo più e meglio di prima», disse il principe Andrei, alzandole con la mano il viso così da poterla guardare negli occhi. Questi occhi, pieni di lacrime e di gioia, lo guardavano con timidezza e con passione e con amorosa letizia. Il magro, pallido viso di Natasha, con le labbra gonfie, era più che brutto. era tremendo. Ma il principe Andrei non vedeva quel viso, vedeva soltanto quegli occhi splendenti che erano magnifici. Da quel giorno, per tutto il resto del viaggio dei Rostov, in tutti i luoghi di sosta e di pernottamento, Natascia non si allontanò da Balkonski ferito e il dottore dovette confessare che non si aspettava da una fanciulla né tanta fermezza né tanta abilità nel curare il ferito. Per quanto paresse terribile alla contessa l'idea che il principe Andrei poteva morire durante il viaggio nelle braccia di sua figlia, cosa molto verosimile a quanto diceva il dottore, ella non poté contrastare Natascia. Benché in seguito al riavvicinamento avvenuto adesso tra il principe Andrei ferito e Natascia si pensasse che, in caso di guarigione, le loro antiche relazioni di fidanzamento avrebbero potuto rinnovarsi, nessuno, e tanto meno Natascia e il principe Andrei, ne parlava. La questione di vita o di morte, che pendeva tuttora indecisa non soltanto per Balkonski, ma per tutta la Russia, impediva ogni altro progetto. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.